culturale. C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9. Via Gianlu, passami il posascenere, vieni. FBI? Uno dovresti avere di là e uno da qui in giro. FBI, non riesco più a mantenere la copertura, entrate. Entrate. Entrate. Ci stanno trecciando, stacca. Stacca, stacca. Stacca, stacca. Allora, buonasera e benvenuti a questa prova di registrazione. Prova di registrazione della puntata numero... 1. Aspetta, prova numero prova numero 1 della puntata numero 1 di C'ho delle storie, seconda stagione. Secondo lockdown, la vendetta. Le stagioni ormai non esistono più. Sembra un discorso da nonni che dicono che non esistono più le stagioni, le mezze stagioni. Qui non è... esistono solo lockdown ormai. Ci sono due stagioni, lockdown e papete. Esatto. Cazzo, non ci sono andato neanche quest'anno, vaffanculo. Lo vedi? Doveva andarci in discoteca, lo sapevo. Gli te l'avevo detto che era l'ultima occasione per godertela. E nulla. Ti devi essere in grado di arrivare al microfono e girartelo nel momento del bisogno. Va bene. Io sono stato a sentire Giuseppi quest'estate, ragazzi. E Giuseppi was very very happy, eh. Ma chi è Giuseppi, scusami? Come Giuseppi? È il nostro ex primo ministro. Ah sì? Cioè, è anche quello nuovo. Però con due coalizioni diverse. Giuseppi. Giuseppi. Ok. Va bene, allora, ma di cosa parliamo questa volta? Gianlu, Gil, Nicola, Umberto, tutti riuniti insieme al circolo di Margine Coperta. Davvero. Una cosa incredibile. In compagnia della sponsor Birra Moretti e Aspirapolvere Folletti. Esatto. Sponsor Arci anche. Anche. Grande. Sì, che non è vero perché non ci paga nessuno, comunque, sì, sì. A parte il Deep State. Facciamo noi da sponsor all'Arci. A me mi pagano. Radio ti paga il Deep State, vero? Certo. Lo sapevo. La Cabal. E infatti è proprio di questo che parleremo. Parleremo della Cabal, del Deep State. Parleremo, sarà una narrazione, cioè una storia che unisce Trump, Hillary Clinton, Foa, il presidente della Rai, unisce Jenna Jameson, la pornostar, unisce Folletti, uomini talpa, bambini intrappolati sotto New York, cioè, oddio, l'adrenocromo. Ma è serissimo. Cioè, è una roba veramente, è una storia allucinante. Ma c'entra anche Trump? Ma Trump, quello che sta piagnucolando su Twitter? Va bene. Quel Trump. Non ha ancora perso, però. Okay. Non è ancora ufficialissimo, però. Siamo però c'è quasi, strada, dai. Parleremo anche un po' di questo, dai. Siamo sulla giusta strada. E poi di cosa parliamo? Parliamo del WEF, no? Il World Economic Forum. Quindi facciamo un po' di trame nascoste, neanche troppo, perché comunque le fonti ci sono accessibili a tutti tramite la rete. E di piani futuri che magari in questa finestra Covid si potrebbero accelerare in maniera esponenziale e quindi cambiare il nostro modo di vivere in qualche modo, no? Ma quindi c'ho delle storie d'inchiesta. Delle storie d'inchiesta più o meno poi da comprendere quanto siano veritiere, però personaggi, no, molto famosi, c'è anche il Carlo, il principe d'Inghilterra e altri personaggi... noti ai più, che comunque sembrerebbero tramare un po' alle nostre spalle, ma neanche troppo, eh? Via, quindi ci fa causa tutto l'establishment. Esatto, stiamo aspettando proprio loro, stiamo aspettando, così avremo un dibattito in radio anche con loro. Il bolletto. Va bene, raga, dopo questo iniziamo. Mandiamo una canzone. Che mandiamo? Prima canzone della seconda stagione. Mandiamo roba forte. Dai, una cosa che ci ricorda a tutti che siamo filoamericani, purtroppo. Siamo tutti filoamericani. Siamo tutti filoamericani, almeno purtroppo culturalmente. Guarda quanto ci cagano il cazzo con queste elezioni americane, che poi fondamentalmente che cazzo ce ne frega? Già. È quella la grande domanda di oggi, forse, no? Esatto. Ma noi che cazzo ce ne frega? Anche uno dei temi principali dei meme sulle elezioni. Bellissimo Jimi Hendrix, l'inno americano, insomma, non lo so, non mi piacciono mai tanto gli inni. Comunque qua riprendiamo le trasmissioni, siamo in super soggezione, c'è tutto il circolo Arci con noi e finalmente non siamo più soli, siamo tutti insieme. E finalmente sembra che si capisca come sono finite, insomma, le elezioni americane. A quanto pare Biden, nonostante tutte le polls, cioè i sondaggi, lo dessero per vincente, e si sa che i sondaggi sbagliano sempre, specialmente in America, viste anche le ultime volte. Nel 2016 avevano sbagliato parecchio. Ma parecchio. Insomma, a questo giro sembra che Biden sia vincente, E quindi cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che Trump finisca o in prigione o comunque gli tolgano un bel po' di soldi, insomma, con tutta questa storia dell'impeachment, eccetera, eccetera, di cui sinceramente io ci ho anche capito poco, però vabbè, magari qualcuno lo sa meglio di me. Ma io no, okay. io no. Ci hanno provato, ma poi alla fine è stato nulla di fatto, se non che comunque lui ha dichiarato di aver pagato meno tasse perché è stato più bravo degli altri a usare le leggi a suo favore, detto da un presidente degli Stati Uniti, insomma, no? Ti fa anche confidare proprio nelle leggi, il suo famoso law and order probabilmente si riferiva anche a questo, chissà. Bellissimo, insomma, no, tanto bello no. Comunque bellissimo, bellissimo che stia perdendo. E sì, bellissimo in questo momento anche il suo Twitter, che se andate a vedere, tipo ogni 2 o 3 ore cancella un suo messaggio segnalandolo come pericoloso, potenzialmente pericoloso, oppure fuorviante. Ma io su WhatsApp quando sono ubriaco e scrivo una cazzata, che giorno dopo messaggio cancellato. Sì. Non è che poi lo segnala, è proprio Twitter. Tra l'altro il CEO di Twitter infatti si è messo tante volte, insomma, contro Trump, anche durante le proteste del Black Lives Matter. E insomma Trump piagnucola, però Trump insomma cerca anche un po' di fomentare la folla, i suoi elettori, no? Cercando di creare un po' di caos, un po' di trambusto. E sì, infatti a quanto sembra sta cominciando a tirare fuori questa teoria per cui i democratici avrebbero rubato i voti. Ma io dico no. Ma da quando in qua non si rubano i voti? Cioè, qual è la novità? Ma i repubblicani l'hanno sempre fatto, cioè Clinton aveva portato pure la gente immobilizzata a letto a votare, aveva messo un sacco di soldi per rubare voti di qui e di là, dai carcerati anche, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma adesso se la sta prendendo con Biden, che poveraccio, cioè ha solo imparato dagli altri a quanto pare. Poi non si sa se li abbia rubati veramente o no. Se la rifà con il voto postale, no? Cioè è un po' quello, a quanto ho capito, il discorso che fa Trump. Cioè lui ce l'ha con questa novità di quest'anno, che c'è il voto postale, e tantissime persone, se non sbaglio circa 70-71 milioni di americani, hanno votato via posta. Ok, quindi c'è un conservatore che dice che tutto quello che è nuovo fa schifo. Ma lui dice strano, che il coronavirus non esiste, quindi okay, il voto postale non ha senso. Ok, chiaro. Beh, insomma, molto responsabile da parte di Trump. Sì. Non me l'aspettavo per niente. E però, insomma, il modo in cui sta parlando di questa cosa, dei democratici che rubano i voti, no? A me suona un po' come un complotto, una specie di... Un complotto. Che belli complotti. Sì, perché si sa che i democratici fanno tante cose... Insomma, molti elettori di Trump pensano che i democratici abbiano tipo una specie di giro strano. Sì, cioè, se pensi che la Clinton mangia bambini... Avevo sentito anch'io questa cosa, ma non solo li mangiano, tipo prendono il sangue per farci il bagno. Certo. E poi... È tutto vero? È tutto vero? È tutto vero. Allora, se è tutto vero, possiamo stare tranquilli. È tutto vero. Ma più che l'importante, secondo me, è più se tu senti che è così, cioè tu lo senti dentro di te che è così. Certo. Io personalmente sì. E allora è vero, è così che funziona. È vero. È post verità, capito? La meta. Guarda, io non so, cioè probabilmente non è vero, cioè arrivo addirittura a dire questo. Probabilmente non è vero, però ci sono queste teorie a giro per il mondo che comunque stanno mietendo vittime. Si sta spargendo tanto odio e sangue a giro per il mondo seguendo queste teorie, e nonostante questo, queste teorie stanno continuando ad andare avanti, e purtroppo ci sono personaggi che stanno, tipo ad esempio la repubblicana Marjorie Taylor Greene, da 2 giorni è entrata nel congresso ed è stata eletta alla Camera dei rappresentanti in Georgia a seguito di una campagna elettorale accompagnata dal motto «Salva l'America, ferma il socialismo». In un video infatti la si vede armata di un fucile semiautomatico mentre mette in guardia contro i pericolosissimi terroristi Antifa, Ok, quindi lei praticamente vuole fermare il socialismo sparandoli con un'arma semiautomatica. Esatto, okay. Esatto. E lei... Sembra molto rappresentativo comunque dell'America, no? Da una parte fermare le cose con i mitragliatori semiautomatici, quindi... Nei film vada sempre così. Niente di nuovo, qui si sta scoprendo l'acqua calda praticamente, di continuo. I Mercenari 3 in realtà è un documentario, cioè non è un... Siamo a questi livelli qui, ma la cosa peggiore di questa Marjorie Taylor Greene non è tutto quello che abbiamo appena detto, è che è una fanatica di QAnon. Per fortuna. Per fortuna. Cioè, ma cos'è QAnon? Io spero che chi ci ascolta non sappia niente e si vada subito ad informare, perché è una cosa veramente incredibile. Io non so se voi ne sapete qualcosa, ma... Poco, quindi illustraci. Io ho sentito tante cose, mi sono fatto diciamo una cultura in questi giorni e non vedo l'ora di parlarne. In realtà è una delle storie più belle che ho mai sentito. È bella, vero? È proprio una storia bella. È una storia bella. Sì, è così paradossale comunque che poi la potremmo andare ad accostare anche al nostro Bibbiano, no? Per assomiglia, per alcune un po' dinamiche. Purtroppo. Sì, poi purtroppo Bibbiano non ha subito tutta quella fantasticheria che esatto. Poi in realtà sono riusciti a produrre in questi 4 anni questi invasati statunitensi. Evolvendosi, sì, ha raggiunto comunque dei livelli incredibili. E infatti adesso proverò a narrare un po' questa storia, cercando di prenderla sotto vari punti di vista e facendo anche degli, diciamo, dei flashback, vado un po' avanti e indietro nel tempo, giusto per far capire com'è oggi, da dove è nata e com'è nata. Un po' di storico. Cercando di fare un po' di chiarezza, perché comunque la trama è confusa, ecco, in un certo senso. O sono confuso io, cioè, non lo so. La trama è molto confusa. Partiamo così. 20 settembre 2018. L'FBI arriva a Cave Junction, un piccolo centro dell'Oregon occidentale che ha poco più di 1000 abitanti. Gli agenti cercano uno di loro, William Douglas, 35 anni, non lo trovano a casa, ma lo intercettano davanti a un emporio, lo arrestano, lo portano via. Douglas è accusato di aver minacciato di morte su Twitter l'amministratrice delegata e i dipendenti di YouTube, il terzo sito più visitato al mondo. «Vengo a beccarti», ha scritto prima di annunciare di voler andare alla sede centrale dell'azienda per fare una strage. «Se volete più vittime, vedrò quel che posso fare». Scrivendo più vittime, Douglas, infatti, si riferiva ad un episodio ben preciso avvenuto qualche mese prima. San Bruno, California, 3 aprile 2018. Una donna entra nel cortile della sede di YouTube durante la pausa pranzo e apre il fuoco con una pistola semiautomatica. Ferisce 3 persone, una in modo grave. Poi si uccide sparandosi al cuore. Si chiamava Nasim Akdam. 2 giorni dopo avrebbe compiuto 39 anni. Nasim aveva un canale YouTube dove parlava di alimentazione vegana, bodybuilding, cultura persiana e altri argomenti. Il canale era abbastanza seguito, eppure lei pensava che YouTube lo stesse boicottando e limitando il traffico con appositi filtri. Douglas si documenta, legge questa storia, la trova su internet e ne rimane molto colpito ed empatizza con la donna. Anche lui si lamenta di YouTube, i suoi video raccolgono centinaia di migliaia di visioni, ma lui pensa che potrebbero fare di più, è convinto di subire censure per via del loro contenuto. Douglas è un estremista di destra, un appassionato di teorie del complotto. Nei suoi video propaganda le tesi più astruse, dalla terra piatta al finanziere ebreo George Soros che controlla mezzo mondo. Da circa un anno, però, si è fissato su una teoria in particolare, o meglio, su una teoria che sta inglobando quasi tutte le altre, una meta-teoria del complotto chiamata QAnon. Alpalus Sleiman, un 29enne di Boston, è ormai certo, il governo americano sta per rapire i suoi figli o è pronto a ucciderli per poi dargli la colpa. E siccome può succedere da un momento all'altro, bisogna agire il prima possibile. Il momento della fuga viene fissato per la mattina dell'11 giugno 2020, quindi veramente poco tempo fa. L'uomo fa salire la moglie e i loro 5 figli, che hanno dai 13 anni agli 8 mesi, sulla Honda Odyssey blu. La famiglia non conosce la destinazione del viaggio, ma ci mette poco ad accorgersi che qualcosa non va per il verso giusto. Sleiman è agitato, guida in modo nervoso e parla di un'oscura cricca che li starebbe inseguendo. All'altezza di Haverhill, una cittadina del Massachusetts, La moglie si getta dall'auto in corsa. Dei passanti pensano che sia stata buttata fuori e allertano la polizia, che si lancia all'inseguimento. Dietro il veicolo, intanto, Slyman fa partire una diretta Facebook dal cellulare. Dice che vogliono farci diventare pazzi, che i poliziotti stanno per rubargli i figli e che la moglie e la figlia più grande fanno parte del grande piano. In sottofondo si sentono delle grida. «Stai guidando come un pazzo!» esclama la figlia tredicenne. L'uomo dice che non è vero e l'accusa ancora una volta di essere combattuta, di essere in combutta con degli imprecisati loro. L'auto intanto sconfina nello stato limitrofo del New Hampshire. Sempre più disperata, la figlia prova ad afferrare il volante per mandare fuori strada la macchina senza riuscirci. Nel tentativo di spaventare il padre, arriva persino ad ammettere di essere dentro questa cricca e di avere il potere di far arrivare la polizia. Anche questo tentativo va a vuoto. L'uomo continua a parlare. Hillary Clinton è un demone, spiega ai figli, che mangia il cervello dei bambini insieme ad Uma Abedin, la vicepresidente della campagna elettorale del 2016. Donald Trump, dice Slyman guardando la fotocamera, mi serve un miracolo, una roba del genere. In lontananza si sentono le sirene. QAnon, aiutami. QAnon, aiutami. Alla fine, insomma, prendono Slyman e i figli fortunatamente sono illesi e l'uomo viene arrestato con varie accuse. Stando infatti, cioè questo per dire che qualche giorno dopo, stando ad un pezzo del Daily Beast, si viene a sapere che era entrato in contatto con dei video su YouTube di QAnon, sostanzialmente. Un bel brainwashing. Esatto, esatto. Bene. Questo per capire comunque che ci sono delle teorie, soprattutto c'è, cioè, tutti gli effetti che hanno poi queste teorie, se messe alla mercé del popolo, possono comunque portare a delle cose veramente, cioè, diventano, insomma, diventano molto molto pericolose. Ma tutto questo, cioè, quindi per raccontare al meglio questa storia, dobbiamo cominciare da una pizzeria. La famosa pizzeria, la famosissima pizzeria. La famosissima pizzeria di 4chan. E poi di 8chan. E poi di 8chan. Che poi l'hanno chiusa ed è diventato 8kun. Che tra l'altro è stato fondato da un nazista. Fra l'altro, sì. Ma d'altronde è di questo che si parla, no? È di questo che si parla alla fine. E che cosa succede in questa pizzeria? Insomma, sostanzialmente, nella tarda primavera del 2016, quindi nel pieno, nel vivo della campagna elettorale in cui poi è stato eletto Trump, siamo, diciamo, la campagna elettorale entra nel vivo. La scelta di due candidati rivali è imminente, ma nei due partiti che si affrontano le situazioni sono piuttosto diverse. Mentre Donald Trump avanza alle primarie repubblicane, Hillary Clinton è in un momento molto difficile, perché sostanzialmente DC Leaks e poi WikiLeaks fanno breccia, diciamo, nel sistema di Hillary Clinton e gli leggono alcune mail. In queste mail entrano in contatto con alcune mail che lei aveva scritto privatamente al gestore di una pizzeria per fare comunque degli incontri in quella pizzeria. E a quel punto il gioco è fatto, esatto. WikiLeaks pubblica le 19.000 mail, aggiungendone però molte altre. Nei mesi successivi ne arriveranno ancora, tante che nell'autunno 2016 l'intero corpus ne includerà 100.000, oltre a migliaia di file allegati. Sul loro contenuto e sulle modalità e responsabilità del loro trafugamento si avvieranno indagini federali. Proprio dalla pubblicazione di questa corrispondenza nasce e si sviluppa sul forum 4chan una teoria del complotto incentrata su immagini di bimbi in catene e abusi sessuali. Secondo questa teoria, esponenti di punta del Partito Democratico e manager della campagna elettorale di Hillary Clinton parteciperebbero regolarmente a rituali esoterico-satanici durante i quali sarebbero commessi violenze su minori, il tutto nelle cantine del Comet Ping Pong, ristorante e pizzeria di Washington. Quindi, praticamente, su 4chan, che è un sito anonimo dove nessuno mette il nome e non devi neanche registrarti per postare, arriva uno e scrive che Hillary Clinton... No, non ce la fa. Arriva uno e scrive che Hillary Clinton è dentro una specie di tresca satanico, vampiresca, esoterico, vampiresca, massonica, nuova ordine globalica, eccetera, esatto, eccetera, con eccetera. Con tutto il potere che ha, usa il retrobottega di una pizzeria con, di una pizzeria che esiste veramente a Washington, tra l'altro. Esatto, e c'è anche un proprietario, che poveraccio. Chissà cosa aveva fatto a quello che ha postato su 4chan. Esatto. E da qui la cosa comunque, nel senso, raggiunge dei livelli inquietanti, perché sostanzialmente cominciano a decifrare tutto il contenuto di questa email e i geni di 4chan notano che nell'email ricorre spesso l'espressione cispizza, che ha incredibilmente le stesse iniziali di child pornography. Ah! Ti ho beccato! E quindi a quel punto la comunità comincia a delirare e inventa un linguaggio in codice nel quale pasta significa bambino, salsa significa orgia e così via. E quindi un semplice scambio di email su un ordine di pizze diventa una congiura mondiale dove si serviziano bambini nel retro di una pizzeria di Washington. Assurdo. E che cosa succede? La cosa dilaga, va su Reddit, poi alla fine nei social network, su YouTube, in un crescendo di odio e sospetto. A quel punto qualcuno deve assolutamente agire, cioè mica puoi permettere in campagna elettorale Hillary Clinton di fare una roba del genere. Quindi a un certo punto, domenica 4 dicembre 2016 a Salisbury, in California del Nord, il tal Edgar Madison Welk, 28enne, padre di 2 figli, esce di casa presto in compagnia del suo cellulare, di 3 armi da fuoco e una scatola di proiettili. Sale sulla sua Toyota e percorre 580 km verso nord. Cioè io già me lo immagino, zitto, con la radio spenta. Madonna. 580 km verso nord in direzione di Washington DC. Che poi probabilmente per lui era normalissimo avere le 3 pistole dietro e i proiettili. Sì, alla fine era in America, no? Ma infatti, dove vai a 500 km di distanza se non conto le mie porte, spazzolino? Spazzolino preso, dentifricio preso. No ragazzi, comunque è una brutta storia. E quindi insomma, lui che cosa fa? Fa sti 580 km, entra con queste armi da fuoco nella pizzeria, che è una pizzeria, quindi è un luogo dove le famiglie portano i bambini e vanno a mangiare la pizza. E a parte, vabbè, che ovviamente viene notato immediatamente a tutti i presenti perché aveva in mano un'arma e grida di voler liberare dei bambini schiavi e spara alcuni colpi, per fortuna senza uccidere nessuno. Dopodiché entra nel retro dove si aspettava di trovare dei bambini imprigionati e seviziati, ma incredibilmente trova solo il retro di una pizzeria. E decide quindi di consegnarsi alle forze dell'ordine per poi dichiarare al New York Times che le informazioni in suo possesso non erano chiare al 100%. Vabbè, questo giustamente dopo entrare in una pizzeria armato e controllare di persona, perché ho controllato le foto. È un po' il nostro essere Batman dentro, no? Fondamentalmente ognuno e viene fuori questa sorta di, non so, la gente esatto. Si diventa il supereroe della situazione. Però l'ha ammesso, dai, cioè l'ha ammesso, dai. E quindi io a questo punto, dopo tutto sto pippone, direi mettiamo un pezzone. Dai, un pezzone. Vai, mettilo. Mandala. Mandala, DJ. Primo, ama la musica. Secondo, ama la musica. Tieni a mente, non si offende questa musica. Non fargli ingabbiare quello che nasce illegale. Resta acceso e reggi il peso del bagaglio culturale. Mettici la faccia, sì. Il sangue su ogni traccia. È la tua sola ricchezza e chi disprezza la minaccia. Serio in ciò che fai, don't believe the hype. Ricordati che un test è più importante di un freestyle. Studia parole nuove, porta il sole quando piove. Rispetta i vecchi rapper e poi mandali in pensione. Mantieni la tua dignità ma dai retta a una critica. Riconosci il vero e soprattutto chi lo imita. Contesta ogni elemento, sì. Compreso il rap di Kento. Vesti camo e resta calmo in questa giungla di cemento. E non credere a polvere bianca e banconote. Ama la tua donna, ma sposa queste note. Quello che non avevi lei, l'ha fatto giusto a tempo. Si è rovinato tutto proprio. Questo macello prima o poi ha fatto una scena di gelosia. Purtroppo, quando contai le fronte, vedi a cannare tu. Vedi che ti... aperto. E lei dice ciao, e regna così, e regna come quella di ieri, esatto. Primo ama la musica, secondo ama la musica, terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica, terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama te stesso, terzo primi tu in equilibrio con tutto il resto. Rispetto per il prossimo, ma tieni in alto il mento. Vivi come se fossimo in perenne allenamento. Impara dal passato, il parallelo non ha senso. L'evoluzione è sempre naturale con il tempo. Studia ciò che è stato e capirai il presente meglio. Se non elevi il tuo status, non potrai chiudere il cerchio. Qua aspettano tutti il nuovo campione. Dimmi chi, quando e dove, dico chi, dice quando e come. C'è distinzione tra personaggi e persone. C'è chi taglia il traguardo e chi porta avanti il testimone. Tu cerca il tuo spazio, lo stile prima dello slang. Paga il tuo dazio, il sapere prima dello swag. Non cercare lo scasso, ma la competizione. Un passo avanti l'altro, porta in alto il tuo nome. Primo ama la musica, secondo ama la musica. Terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Dico, primo ama la musica, secondo ama la musica. Terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica. Sognala di notte, metti amore e lotta in musica. E sì, nasce in America, ma non è dell'America. È ritmica meticcia di razzista, non la merita. Studia il Bronx ed Harlem, sì, e le Black Panthers. Ma soprattutto il ruolo dei governi e delle banche. Se è vero che l'hip hop è un fenomeno globale, allora coi tuoi testi puoi far male al capitale. E do un consiglio per chi inizia oggi a scrivere. Prendilo sul serio anche se non dà da vivere. E do un consiglio per chi inizia oggi a scrivere. Mantenerlo vero altrimenti non può vivere. L'ultimo consiglio che do a chi inizia a scrivere. Testa indipendente perché resta a te decidere. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica. Terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica. Terzo tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Bella storia. E quindi QAnon, ragazzi, QAnon, il nuovo complotto. Sarà da un anno e mezzo che c'è in giro. No, tre, quattro. È dal 2016. Dal 2016. Da quando Hillary Clinton... Però la pagina italiana su Facebook c'è da un paio d'anni. Ma sai che mi sono interessato più che altro sugli Stati Uniti, ma perché in un certo senso ho paura di sapere se è arrivato anche in Italia. Cioè, mi auguro di no, ecco. Eh sì, sì che è arrivato. È arrivato. Sì, io ho visto interviste a gente di QAnon in Italia. E che dicono? E praticamente, che cos'è QAnon? QAnon è un movimento che si oppone a un complotto globale dell'elite fatto da gente come Lady Gaga, Tom Hanks, c'è Rothschild, sì. Poi ci sta Oprah Winfrey, c'è Oprah, chiaro, Oprah. Chiaro. Poi ci sta sta Hillary Clinton, sì. Ci sta un sacco di gente. In pratica cosa fanno? Loro fanno rapimenti di bambini a cui sottraggono il sangue per due motivi principalmente. Il primo è perché ci si fanno il bagno dentro che mantiene la pelle, e il secondo è perché così prendono il preziosissimo adrenocromo. Il famosissimo adrenocromo. Il famosissimo adrenocromo. Che tutti conoscono dal celebre libro Paura e disgusto a Las Vegas. Che tutti che sì, noi conosciamo dal famoso... ragazzi, si chiama disgusto. È così, è così. Nel film è diventato Paura e Delirio, però sì, insomma, anch'io sono diciamo che questo. Almeno tutti noi lo conosciamo da lì. Esatto. E che sappiamolo perché, nel senso, non si estrae dai bambini l'adrenocromo, cioè è una cosa che si sintetizza in laboratorio e sì, già sì. La Treccani lo diceva nel 29. Ma no, infatti ci sono tantissime cose su questo adrenocromo, infatti adesso ne voglio parlare, però insomma, ecco, diciamo che loro prendono il sangue dai bambini. E sono tutto un complotto globale e si mandano messaggi attraverso i media tradizionali, negli articoli, nei film, in certe ispezioni televisivi tu puoi trovare delle cose che si chiamano QAnon Drops, che sono piccoli frammenti documentali che, guarda caso, estrapolati dal loro contesto del tutto, riescono a confermare la loro teoria. Meno male abbiamo registrato sta roba. Sì, sì, se la confermano pure. Sì, sì. E E quindi, insomma, questo è. In tutto questo, Donald Trump è una specie di eroe che sta segretamente lottando, senza dirlo a nessuno, contro tutto questo movimento. Molte delle sue leggi, molte delle sue mosse politiche, che apparentemente potrebbero sembrare delle complete stronzate, possono essere in realtà giustificate e spiegate come mosse contro questo complotto. Molti credono che ci siano 32.000-33.000 soldati in America mandati apposta per combattere questo giro di pedofili che sono venuti in Europa e stanno solo aspettando un cosiddetto ordine esecutivo. Ordine esecutivo che assomiglia un po' al giorno del giudizio. Cioè, questo, loro aspettano questo giorno in cui Trump rivelerà al mondo il suo piano segreto per salvarlo dal giro di pedofili. Questo dovrebbe, in teoria doveva avvenire prima che perdesse. In realtà però, è insomma, chiamata, mi sa, la tempesta, The Storm, la, o The Great Awakening, il grande risveglio. Il grande risveglio, sembra quasi una storia proprio da Vangelo, no? Sì, una, ma perché c'è profetica. Dentro di tutto, c'è dentro di tutto. Assomiglia proprio tanto a una religione. Ma sì, immaginario, si sono riusciti a creare un immaginario. Ma soprattutto perché si basa su delle cose che esistono davvero. Cioè, nessuno dice che non esiste la tratta dei bambini, nessuno dice che non esiste la pedopornografia. Cioè, quindi si attaccano a delle cose che fanno oggettivamente paura per poi legarci delle storie assurde. E questa è una cosa veramente pericolosa, no? Sì. Cioè, credo che la giocano sulle paure. Hai toccato un tasto che infatti era una delle cose che volevo dire, cioè che proprio il problema, o forse la cosa più pericolosa di, in generale, qualsiasi teoria cospirazionista, è che proprio tendono a far leva, in un qualche modo mi verrebbe, non so, un'analogia più semplice, forse quella delle fake news. Cioè, allo stesso modo di come le fake news vanno di più delle news, quelle vere, allo stesso modo una teoria del complotto, se fatta bene, se sfrutta quelle paure, come dicevi te, o comunque quelle cose che tutti sanno che in un qualche modo da qualche parte ci sono, e che giocano anche un loro ruolo, magari nessuno lo nega, automaticamente è facile costruire lì sopra un castello potenzialmente senza fine. Eh sì, sì, infatti, guarda, proprio mi viene in mente una cosa che mi ero scordato, il deep state. Il deep state non è che non esista, cioè viene usato, se si va a leggere tipo sull'IMES, come ne parlano, insomma, i cosiddetti esperti, il deep state non è altro che l'intero impianto burocratico di ogni singolo paese. Però, insomma, questi QAnon parlano di un certo deep state universale, per cui dovrebbe essere una specie di nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera. Una componente molto importante. La cabal sarebbe praticamente questo ordine mondiale di queste persone che, cioè, sostanzialmente, che cosa dice? A parte che l'ingresso nel mondo di QAnon viene descritto come l'ingresso nel rabbit hole, quindi nella tana del bianconiglio, che è una cosa che è fichissima, anche perché un po' Matrix. È quello, capito? Esatto, Matrix, Matrix. Blue pill, red pill, mi fa venire in mente un po' l'incel, no? Di cui si era parlato. Esatto. E sostanzialmente, quindi, Trump ovviamente è la persona che ha risposto per amor di patria ad una chiamata del Pentagono e ha accettato di diventare presidente per combattere una lotta segreta contro un governo mondiale occulto di pedofili satanisti, il cosiddetto deep state o cabal. Che cos'è la cabal? Perché poi, nel senso, noi ora la prendiamo seriamente, ma questi sono degli invasati, La cabal ha preso... Ma quanti sono? Sono, secondo alcune stime, all'incirca 52 milioni. 52 però, milioni di persone? Però basate su un sondaggio fatto male, cioè ovvero un sondaggio basato su... quanto credi alle teorie di QAnon... Molto, molto poco. Cioè, un sondaggio veramente fatto alla cazzo di cane. La maggior parte, fai conto, alla che bonus. Ha risposto... Questo è l'anno dei sondaggi, le statistiche a cazzo di cane, quindi... Comunque, sui sondaggi e sul problema reale che questo QAnon ha nel mondo, io ne parlerei con più calma nella prossima puntata, perché ci dilunghiamo un po'. Comunque, ma cos'è cabal? No, con la accentata, la seconda accentata. Esatto. No, perché bisogna essere puntuali e precisi. Cabal. La cabal ha preso il potere negli Stati Uniti dopo l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy e da allora controlla il deep state, lo stato profondo, ma non le forze armate. Questo dovrebbe sollevare dei dubbi su cosa significa controllare lo stato profondo, ma vabbè, andiamo avanti. D'altronde gli Stati Uniti sanno dare solo risposte senza porsi domande. La cabal ha deciso tutti i presidenti prima di Trump, compresi la Reagan, i due Bush, eccetera, eccetera. E della Cabal fa parte ogni avversario politico di Trump, da Barack Obama a sua moglie Michelle, che secondo QAnon è una transgender, cioè un uomo, il che fa di Obama un frocio, ma vabbè, lasciamo perdere. Sì, Hillary Clinton si mangia i bambini, che Obama sia un frocio diventa... È la meno. Poi c'è ovviamente Nancy Pelosi, Hillary Clinton, che secondo QAnon, appunto, come dicevamo prima, divora neonati, per giunta filmandosi mentre lo fa, fino ovviamente agli odatissimi movimenti Black Lives Matter e Antifa. Appartengono alla Cabal, quindi, come dicevi prima te, Umbe, Tom Hanks, Celine Dion, Oprah Winfrey, Marina Abramovic, Beyoncé, oltre a Celine Dion, oltre agli imbancabili George Soros e Bill Gates. Tra l'altro assolutamente non... Ah, c'ha Bill Gates, cazzo. C'ha Bill Gates, c'ha Bill Gates, c'ha Bill Gates. Come fate a noi inserirlo in una qualsiasi teoria conspirazionista? Fa un sacco di cose. Ma qui, secondo me, da qui in avanti che cagano un po' fuori dal vaso, perché fin qui, fin dai, qui. Diciamocelo. Obama e Clinton sono già stati arrestati, rinchiusi a Guantanamo e giustiziati. Quelli che vediamo sono dei cloni. Ah, i famosi cloni. Tom Hanks invece ha tentato di sfuggire alla giustizia prendendo la cittadinanza greca, perché come tutti sappiamo la legge greca considera la pedofilia una semplice disabilità. Quindi Tom Hanks, essendo un pedofilo, è andato a vivere in Grecia. Esatto. Piano fallito però. L'attore è stato arrestato da agenti di Trump ed è recluso in un hotel australiano con un bracciale elettronico alla caviglia. Vabbè. Ma chi è Q? Raga, chi è Q? In realtà non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è che la sera del 5 ottobre 2017 Donald Trump, la moglie Melania Trump e una ventina di ufficiali dell'esercito si mettono in posa per le foto di rito nella sala da pranzo della Casa Bianca. Per qualche motivo, probabilmente l'instabilità mentale, il presidente degli Stati Uniti sembra essere particolarmente loquace. Facendo un gesto circolare con la mano sinistra, Trump si rivolge ai reporter. Sapete cosa vuol dire tutto questo? Dice. I giornalisti glielo chiedono. Forse è la quiete prima della tempesta, dice. Da lì parte un dialogo surreale. Quale tempesta, insistono i cronisti, potrebbe essere la quiete prima della tempesta, continua Trump. In questa stanza ci sono i migliori militari al mondo, sempre più spaesati, i giornalisti ci provano ancora. Ma di quale tempesta stai parlando? La sua risposta finale è secca, lo scoprirete. Figurati qui che cosa non tirano fuori. Nel tentativo di interpretare le parole di Trump, il New York Times e altri media tirano in ballo possibili scontri militari con la Corea del Nord e l'Iran. Banale. Banalissimo. Fatto sta che nessuno, neanche lo staff del presidente, riesce a spiegarne il significato. Il gioco è fatto. I social network delirano, 4chan e Chan delirano, Reddit, parte tutto il meccanismo e da qui... appunto la quiete prima della tempesta eccita gli animi e scatena ogni tipo di ipotesi. E qui il 28 ottobre su 4chan compare un utente che si firma Q e sostiene di conoscerne il significato. Q infatti si spaccia per un ufficiale dell'intelligence americano, un alto funzionario governativo incaricato da Trump e dal Pentagono di allertare il mondo su quanto sta per succedere. The Storm, la tempesta, cioè l'arresto e l'esecuzione di massa di tutti i membri della Cabal. Secondo molti seguaci di QAnon, dietro la firma di Q si nasconderebbe chi? Chi? Non lo so, Q. Ma come, dai, raga. Cioè, John Fitzgerald Kennedy Jr., noto anche con il nomignolo John. Che ufficialmente è morto in un incidente aereo del 99, ma che in realtà è vivo e vegeto e per motivi non chiariti, nemico di quel partito democratico di cui era importante uomo immagine. Quindi, scusami, ma... No, vabbè, cioè è impossibile. È impossibile che sia un funzionario governativo, cioè non può essere un funzionario governativo, cioè una spia che si mette lì su 4chan, no, si firma Q. È chiaro che è Kennedy, ragazzi. È chiaro, cioè, ma scusa, chiaro. Come fa Kennedy a morire in un incidente aereo? Dai, ma, cioè, ma figurati. Esatto, è troppo... una persona così non può... Non può. Poi nel 99... 999, che è il contrario di 666. Non lo so, non so se qualcuno l'ha pensato, ma la lancio io. Comunque, insomma, è Kennedy. E riguardo al significato di quiete prima della tempesta, Q fornisce questa visione che è un luminare di fronte agli occhi di tutti. Cioè, ovvero, Il giorno in cui si scaterà The Storm, la tempesta, Trump oscurerà ogni mezzo di informazione mainstream, TV, radio e siti e giornali, e parlerà alla nazione tramite il sistema di trasmissione d'emergenza progettato per raggiungere cittadini in caso di guerre, calamità o altri eventi straordinari. Ma cosa dirà agli americani? Annuncerà il grande risveglio, The Great Awakening, la costruzione di una nuova società comandata da lui e dai militari. Trust the plan. Abbiate fiducia nel piano, dice uno dei più noti slogan di QAnon. Abbiate fiducia, la tempesta è imminente e colpirà anche fuori i confini. I credenti europei sono in bisibiglio. Come si dice? Bisibiglio. La giustificazione è che l'imperialismo Yankee è espressione della cabal, ovviamente, ed è per colpa sua se gli Stati Uniti sono cattivi. Trump li redimerà e dopo la tempesta saranno buoni. Redimerà. Dovremmo dedurne a questo punto che prima della morte di JFK, momento in cui i satanisti pedofili presero il potere, gli Stati Uniti non erano imperialisti. È una conclusione sensata, d'altronde, se si lasciano a parte giusto dozzine di libri e pagine di storia, la dottrina Monroe sull'America Latina, la politica del grosso bastone di Roosevelt, la guerra in Corea, Iraq, Freedom del 2003, il golpe in Guatemala del 54, e insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo loro non lo sanno. E infatti, se non lo sai, è tutto a posto. E in questo mondo risvegliato, Trump fornirà energia gratis a tutti, grazie ad una tecnologia ultramoderna ancora segreta, ma della cui esistenza sono edotti milioni di commentatori dei social network. Tra parentesi, nel mondo reale Trump è legato a doppio filo alle industrie del carbone e del petrolio, delle quali tutela gli interessi e da cui prende voti, ma vabbè. Io non lo so, veramente. Qui poi si rientra nel discorso dell'adrenocromo, che è una storia veramente assurda. L'adrenocromo, sì. Ma parliamo dell'adrenocromo. Da dove lo prendono l'adrenocromo, però? Lo prendono dai DAMB, ovvero Deep Underground Military Bases, ovvero sono delle basi militari che sono nel sottosuolo. Ci stanno venendo a prendere. Esatto. E tra l'altro DAMB significa, se non sbaglio, canzone. Ok. Comunque DUMB. DAMB, esatto. Okay. Quindi ci sono queste basi militari sotterranee. Ci sono delle basi militari sotterranee dove la Cabal, da quando ha preso il potere, ha sostanzialmente fabbricato dei bambini nell'oscurità. Li ha fabbricati. Cioè, presente Matrix. Cioè, in pratica, nel sottosuolo degli Stati Uniti ci sono delle basi militari dove ci sono dei bambini chiamati Mole Children, ovvero bambini talpa, perché praticamente sono cresciuti nel sottosuolo e non hanno mai visto la luce, quindi sono ciechi. Okay. Servono semplicemente per estrarre l'adrenocromo. Ok. Che non si può estrarre da nessun'altra parte. Assolutamente no, cioè se non sei un bambino talpa non sei nessuno in questo mondo. Io so che l'adrenalina la usano, quindi insomma c'è modo di trovarla. A quanto so, tra l'altro, cioè, fare l'adrenocromo significa semplicemente ossidare l'adrenalina. Puoi prendere per esempio l'ossido d'argento, che lo trovi dal Castorama, e prendi una fiala d'adrenalina dall'ambulanza, non lo so, insomma ce ne sono tanti. Se ti puoi fare le basi militari, insomma penso che riesci a raccattarla in qualche modo. Vabbè, ma lo sai a quel che... punto ossidi l'adrenalina, no? Fai questo prodotto dell'adrenalina che tra l'altro insomma, è stato testato in farmacologia, in farmacia negli ultimi 60 anni. Ciò che si è scoperto è che non ha assolutamente nessun effetto psichedelico. Davvero? È proprio vero, non quel ha nessun bastardo di Johnny Depp ci ha fregato a tutti. Quel bastardo di Johnny Depp ci ha fregato a tutti, ma non bisogna dimenticare che insomma alla fine Paura e delirio a Las Vegas è un racconto un po' di fantasia, era un po' Hunter Thompson, no? Lo faceva sempre di mischiare un po' sì. dettagli assurdi, no? Insomma, ma sì, si capisce. Ma fra insomma. L'altro c'è lui, mi sa, con l'adrenocromo in realtà prendeva già in giro tutte le persone, cioè diciamo prendeva in giro tutte le persone che erano inorridite e terrorizzate dalla faccenda Charles Manson, no? Quindi po' da quel tracollo degli hippie satanisti, cose insomma. Esatto. E poi da dove viene questa teoria che l'adrenocromo è una sostanza psichedelica? Viene da Aldous Huxley, Le porte della percezione, negli anni 56-54, non mi ricordo, insomma. Lui voleva solo raccontare le sue esperienze in mescalina con quel libro. E tira fuori a un certo punto anche questa cosa dell'adrenocromo che si dice abbia effetti, bla bla bla. E però insomma c'è una buona componente di finzione letteraria. Alla fine Huxley era uno scrittore, vabbè che stava in una famiglia di scienziati, e di gente studiata. Anche lui era molto pagine. Studiata. Parlava per 10 pagine dei drappeggi delle tende. Insomma, sì, c'era tanto. Era uno scrittore, aveva veramente c'era... la capacità di entrare nei dettagli delle cose. Esatto. E quindi, insomma, sta teoria che l'adrenocromo ha effetti così viene da lì. Eh sì. E poi però non è vera. Comunque non so se lo sai, ma adesso non si trova più l'adrenocromo in giro. No? È finito? No, non si trova più perché in realtà durante il primo lockdown Trump ha salvato tutti i bambini talpa che erano intrappolati sotto Central Park di New York. Ah, esatto. È una buona notizia. Esatto, perché, e qui concludo perché veramente, cioè nel senso, forse non ha più senso continuare, ma secondo la narrazione di Q, l'operazione più grossa denominata Q-Force ha avuto luogo appunto durante il lockdown a Central Park di New York. Ovvero, l'ospedale da campo allestito nel parco non era in realtà un ospedale da campo, era un avamposto militare. Non nascosto le talpe sono uscite allo scoperto. C'è stato il lockdown che gli ha detto ok, ora vi facciamo vedere la luce solo per un attimo e poi mi riportiamo giù. Nascosto dalle tende, l'esercito, secondo altre versioni forze speciali della marina, è sceso lungo un tunnel scavato a Central Park, ha raggiunto una dumb e l'ha preso d'assalto liberando migliaia di bambini talpa, subito portato su navi ospedali segrete. Alcuni di loro soffrono di gravi deformità per non aver mai visto la luce del sole. Cosa c'è da dire? È plausibile. Certamente è facile, cioè salvare dei bambini, cioè, ma neanche l'avessero fatto nel deserto, no? Cioè proprio a Central Park di New York, come fa? Cioè, nessuno ha visto niente. ma è comunque plausibile. Questo chiudo dicendo che sembra una favola, ma Trump non si è mai discostato da QAnon. Anzi, li ha definiti persone che amano il loro paese. Una cronista gli ha fatto notare che QAnon lo descrive intento a combattere una cricca di satanisti pedofili e lui ha risposto perché sarebbe forse una brutta cosa? E sta se un po' posso... cavalcando l'onda. Sta un po' cavalcando l'onda, però insomma... No. Minchia. Vabbè. Minchia. È così, sì. È così. Io metterei un pezzo, guarda, dai, sì. Metterei un pezzo che, per spezzare questa un pezzo dei Dead Kennedys. Però comunque, aspettando la tempesta, io nel frattempo guardo su Twitter, perché dovrebbe mancare poco. Vediamo se Trump rivela a tutti finalmente. Esatto. Lui è tipo Batman alla fine, no? È vero. Lui combatte di nascosto nell'oscurità contro il male. Di giorno non è che Bruce Wayne va in giro a dire di essere Batman, scusa. È vero. E il suo superpotere sono i soldi. Vabbè, sì. E il suo amato account di Twitter. Il suo amato account. Parte dei suoi super. Ascoltiamoci poteri. Quindi un pezzo direi di Dead Kennedys, perché da oggi cambieranno il loro nome, dato che i Kennedy non sono morti. Quanto pare. Still alive, Kennedys. Efficiency and progress is ours once more. Now that we have a neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and war, but perfect sense. Down and a brand new day. No more will they tax the pay. It's like the villain's gone up in flashing light. Got this million twist away. At last we have more room to play. Our systems go and kill the fool tonight. Gotta kill, kill, kill, kill, kill, kill the fool. Let's get rested and so in the night. Oh, kill, kill, kill, kill. Bellissimo. Ci voleva. Sa, prova. Sa. Va bene, dai. Allora, la prova è finita, ora si può registrare, no? Adesso registriamo quella vera. No, non lo so, mi mette soggezione. Dai, facciamo una prova. Continuiamo con la prova. Proviamo ad avanti da con la prova. Vabbè, comunque, insomma, QAnon, Trump che sta salvando il mondo, complotti. Sì. Nel frattempo cosa succede? A parte le elezioni, cioè, insomma, come avrete sentito dire da 4chan, c'è cioè una pandemia in corso. No. Distributore di informazioni più affidabile del web. Chiaramente. Dopo Reddit, dai. Cioè, dopo Reddit. Dopo Reddit. A mano di pari passo. Esatto. Sì, se la giocano alla grande. Quasi comunicanti, c'era una bella teoria, differenze fra 4chan e Reddit, poi insomma magari se ne parlerà una volta. Perché no? È molto interessante. Sì. No? Comunque insomma, ma quelle sono teorie troppo vere, troppo intelligenti, basta le teorie vere. Ma adesso si andava proprio le su teorie. Qualcosa, infatti magari meno... Di troppo vero. Troppo vero per essere vero e quindi chissà, forse non vero. Cos'è sta verità? Io non ci sto questa verità? Io non ci sto capendo più niente, veramente. Qui... Sì, il complotto poi arriva anche, no, a sfiorare la realtà alla fine, no? Con questi appunto movimenti del deep state che parla di poteri forti, e noi ci siamo un pochino documentati. Io sono rimasto molto incuriosito da questo Great Reset, no? Per tornare poi al complottismo. Però è un complottismo che diventa molto più credibile, perché si comincia a parlare appunto dei organismi internazionali che si conosce un po' tutti. Sì, quindi più che al complottismo in quanto tale ci si ricollega anche, diciamo, a proprio i cambiamenti, come si dicevano appunto, che sono ora alle porte in un qualche modo. Questa sensazione di cambiamento c'è in giro e quindi sicuramente questo fa parte di tutto ciò. Esatto. Comunque la finestra della pandemia, ecco, è un'occasione per accelerare questo processo di evoluzione e per parlare dei temi che fino a prima del Covid ci preoccupavano tanto, come l'ambiente, la parità di diritti, l'uguaglianza anche economica dei popoli, insomma. No? Ce n'era di carne al fuoco prima che tutta l'attenzione venisse polarizzata dal Covid. E in questa finestra di Covid, appunto, ci sono organismi, organizzazioni no profit come il World Economic Forum, che si muovono e propongono anche a livello pubblico, con un sito che possiamo andare tranquillamente a cercare, eventi che sono dei forum dove partecipano personaggi di spicco della politica mondiale, dell'economia, manager di grandi multinazionali. E questi personaggi si riuniscono per appunto mettere in atto un piano di evoluzione, un'evoluzione che ci dovrebbe portare a quello che si diceva prima, cioè pari diritti, un'economia più sostenibile, un'economia che aiuta tutti, e in primis appunto l'ambiente, una crescita anche basata sull'educazione, quindi la formazione, tutto apparentemente perlomeno molto bello e anche giustificato. Se non fosse che, documentandosi un po', uno scopre che questa organizzazione no profit c'è dal 1971, si riunisce periodicamente appunto con personaggi di spicco nelle varie ere. E un paese che non è neanche un paradiso fiscale. Tra l'altro in Svizzera, a Dalos, ora quest'anno, anzi nel 2021, perché a causa del Covid hanno dovuto rimandare anche loro la riunione che avevano fissato ora a fine anno, andranno a Lucerna. Comunque, insomma, sempre Svizzera si parla, però probabilmente posti anche un po' più accattivanti, più credibili ancora rispetto a Dalos. E è curioso perché appunto hanno proprio un'agenda da perseguire e nel mentre stanno raccogliendo sempre più persone influenti per riuscire anche ad arrivare alla massa, no? E quindi si parla di Greta Thunberg, hanno provato a contattarla, perché comunque rappresenta l'ambiente, il cambiamento che viene dai giovani. C'è sempre il nostro amico Bill Gates, perché ormai lo chiamo amico, perché ovunque uno cerca Bill Gates è veramente da tutte le parti, nell'OMS appunto e anche in questa organizzazione. Nella Cabal, appunto, insomma, se ne è parlato prima. E stanno appunto prendendo contatti anche con altre organizzazioni. E io, facendo questa piccola ricerca che poi è diventata enorme, ma insomma non la esporrò tutta, se no ci vuole una giornata, non una puntata, ho trovato un articolo in cui il World Economic Forum appunto viene ringraziato dal Fondo Monetario Internazionale nella persona di Kristalina Georgieva, che appunto spiega il momento storico, diciamo, e la responsabilità da parte degli organi più potenti, anche a livello, soprattutto a livello economico, di proporre un sistema nuovo. Un sistema nuovo che appunto incarna le tre regole principali che fanno parte del programma anche del World Economic Forum, che sono quella appunto di una crescita più verde, nella quale però, attenzione, perché non si parla di una produzione che si deve adattare all'ambiente, ma è una produzione che fa adattare l'ambiente a se stessa. Addirittura loro hanno tirato fuori insomma una lista di queste industrie virtuose, che fondamentalmente sono industrie dove la gran parte del processo è automatizzato. Quindi insomma anche sul lavoro dell'uomo poi ci arriviamo. Comunque, impatto ambientale è appunto minore rispetto alla produzione di ora. Un altro punto fondamentale è la parità proprio a livello economico, quindi una ricchezza che deve essere distribuita, tutti gli individui che devono avere almeno un reddito di cittadinanza, non come lo intendiamo noi, ma comunque un qualcosa di fisso, perpetrato nel tempo, che ti permette di sopravvivere, da quello che si capisce, e poi appunto una formazione che ti permetta di accedere al mondo del lavoro, però un lavoro che non deve essere di base, ma comunque lavori molto qualificati ad un livello già più alto rispetto al nostro. E insomma, in questo articolo che ho trovato, Kristalina Georgieva ringrazia appunto il World Economic Forum per il loro apporto storico, appunto, di voler migliorare la situazione, il sistema, e inoltre anche il Principe Carlo, perché il Principe Carlo si è fatto promotore della campagna appunto dell'UEF, del World Economic Forum, e conclude dicendo che appunto il Fondo Monetario Internazionale è disposto a spendere il suo trilione di dollari che tiene lì in tasca, non si sa come, lì bello caldo e pronto ad essere speso appunto per portare avanti questo programma nel prossimo decennio, puntando anche al 2030, diciamo, come anno di raggiungimento di tutti gli obiettivi. E quindi cioè, questo UEF sta praticamente portando avanti una roba che sembra il programma politico accelerazionista, cioè sembra un tipo una specie di socialismo 2.0 in cui tutte le persone hanno uguali diritti, uguale reddito, non esiste povertà. Però c'è una differenza un po', no? Mi viene in mente un po' una differenza fra il programma politico, magari quello, no, tradizionale del comunismo, non lo so, facciamo un paragone per esempio con la rivoluzione francese, no? Cioè, non lo so, mi viene in mente che la prima differenza è che la rivoluzione francese è stata insomma un bel tumulto, quelli che erano i potenti dell'epoca dopo non erano più così potenti, no? E invece il programma del UEF, secondo me, magari, cioè, vorrebbe un po' mantenere, diciamo, vabbè, facciamo pari, no? Da ora in avanti si fa come dite voi, però noi restiamo qui, si trova un compromesso. Mi sembra un po' una cosa del genere. Poi non lo so se sono i programmi anche di ridistribuire tutta la loro ricchezza. Magari hanno imparato dall'esperienza negativa della rivoluzione francese. Può essere, può essere. E quindi, anche perché io ho visto che loro hanno detto sta cosa a un certo punto, hanno detto we must prepare for an angrier world, ci dobbiamo preparare per un mondo più arrabbiato, quindi non lo so, da una parte non è che, e poi però mi dicono, cioè, ma è l'elite mondiale, ma quante volte abbiamo sentito di loro che donavano soldi, volevano far di qui e volevano far di là, ma non è che anche stavolta non è tipo un modo per passarci un po' da filantropi, no? E poi si fa un po' di cacciare, si usa un po' di soldi di qui e di là, si fa un po' di ricerca e poi finisce con un nulla di fatto. Non lo so, insomma, poi sulle reali motivazioni, anche quello secondo me è tutto un altro capitolo. Vabbè, ma anche loro si priveranno dei loro averi, avranno il reddito di base garantito, no? È un po' strano, sì. sì. Effettivamente sì. Non è quantomeno abbastanza chiaro. Un altro slogan, non mi è fatto venire in mente a parlare di slogan, uno slogan, uno dei primi fra l'altro, mi sembra di aver letto, di non so quale anno, insomma comunque di uno dei promotori appunto del World Economic Forum, un tweet o una cosa del genere dove c'era scritto you'll own nothing but you'll be happy. Quindi come sì. per dire, non sarai più possessore di niente, non avrai più niente, però quantomeno sarai felice. Nel senso, meglio non avere nulla ma essere felici piuttosto che continuare questo sistema per cui abbiamo queste proprietà, eccetera, eccetera. Perché una cosa fondamentale che non è stata detta e che è molto chiara quantomeno è che questo Great Reset implica automaticamente l'azzeramento di tutti i debiti che ci sono. Il reset sarebbe il reset di tutti i debiti. Quindi come si fa a resettare tutti i debiti? Automaticamente è obbligatorio, cioè è necessario, secondo loro, ci sono tre modi fondamentalmente, non mi ricordo neanche più di preciso, però per loro fondamentalmente la strada da percorrere è quella di assolutamente distruggere la proprietà privata. Quindi fondamentalmente si elimina la proprietà. Ma aspetta, quindi distruggere la proprietà privata o la proprietà personale? Perché... io ho sempre fatto questa distinzione, no? Fra proprietà privata, che sono i famosi commons, come li chiamano gli inglesi, no? I mezzi di produzione, le terre comuni, le sorgenti di acqua, no? Per esempio, visto che si stanno comprando un sacco di sorgenti d'acqua in America, anche la Nestlé, da quando poi c'è sulla Luna, figurati. Elon Musk già. Comunque, insomma, come si spiega tutta sta cosa alla fine? Cioè è difficile, lì ci vedo esattamente quella linea di confine strana, cioè nel senso che non è chiaro, perché cioè, da una parte sembra la realizzazione di qualsiasi sogno marxista, cioè finalmente eliminiamo la proprietà privata e i mezzi di produzione, però che fine fanno? Beh, da una parte uno potrebbe pensare, ok, però prendiamo un reddito universale, giusto? Prendiamo comunque un reddito, perché... il processo di produzione automatizzato, quindi in un qualche modo è come collettivizzare i mezzi di produzione, perfetto, cioè proprio oh mio Dio, ora mi sto cominciando a scaldare e a esaltare, però da quell'altra parte invece c'è quello, cioè se invece c'è un gruppo di persone che fondamentalmente rimane dietro a quello che è il grosso processo di automazione, che è quello che poi sarebbe la nostra proprietà che ci siamo ricondivisi tutti insieme, è in un qualche modo mantenere questa sorta di elite da una parte che però ha detto vabbè dai tenetevi questi robottini che vi fanno da mangiare e divertitevi con questa roba, noi continuiamo a avere le ville con tre piscine, che cazzo ne so io, gli elicotteri per andare in giro e faranno i viaggi sulla luna, non lo so, ecco, nel senso nel momento in cui ci tengono così poveri con, cioè per campare è una questione di sopravvivenza, non è una questione che si sta dicendo si diventa tutti ricchi, no, ci sta tutti, cioè non saprà letteralmente un cazzo, però magari non si patisce la fame, cioè dipende un po'. Ragazzi, ma l'ha detto il principe Carlo, ma l'avete visto il principe Carlo? Ma, come... ma tanto lui sarà bello e morto per quando no? Allora, lui non lui può morire. Può... ah, no? No, è come se sarà come su. Ah, ma perché beve il sangue dei bambini? Perché io non ci esco più. No, i cloni, ragazzi, non mi fate pensare ai cloni. Cioè, lui, cioè, è un problema. Ora mi sono perso, riesco solo a pensare al principe Carlo. Comunque si diceva di questa sorta di bipolarità di questo Big Reset. No, no, è interessante infatti andare a scavare su come attueranno un po' questo programma, questo Great Reset, no? Ovviamente già c'è chi ci marcia abbastanza sopra, perché poi la realizzazione diventa una cosa fantascientifica, e che se si prevede di automatizzare tutta la produzione dove l'essere umano, diciamo, non diventa più indispensabile, si elimina le famose possibilità di scalata sociale, e lì parte tutto il paradosso, perché fondamentalmente ci sarà una parte di popolazione completamente tagliata fuori dal mercato del lavoro e quindi mantenuta da questo reddito di cittadinanza, e poi una competizione sulle poche posizioni magari rimaste dove ancora l'uomo fa la differenza e che diventeranno elitarie. Ed è molto molto interessante l'articolo che ho trovato su bitcoin.com, che chi la voglia se lo vada a leggere, che è folle ovviamente, però diventa interessante quando comincia a parlare di come viene concepita la nuova economia che nasce da questo grande reset. Quindi togliendo, diciamo, la proprietà privata, tutti i beni della massa, si va a instaurare un sistema di corporazioni dove viene mantenuto lo status quo di chi è più ricco, quindi delle grandi multinazionali e di chi possiede comunque la ricchezza, la maggior parte della ricchezza, e la massa si adegua a un sistema dove, non essendoci più scalata sociale, l'unica cosa che puoi fare appunto è vivere questa esistenza di sopravvivenza, e però diventi uno stakeholder. Cosa vuol dire stakeholder? Cioè un beneficiario di quelle che saranno poi le rendite delle varie corporazioni che rimangono a capo, esatto, a capo di questa ricchezza. E era interessante, se ne parlava anche con Giallo prima di registrare, perché già esiste ora, no, un'economia di stakeholder dove però le corporazioni sono persone giuridiche, ok, e non sociali. Mentre la follia di questo sistema sembrerebbe che appunto le corporazioni prendono anche un aspetto sociale, quindi determinano poi della vita delle persone nella politica, no? Nelle scelte di tutti i giorni. Ma il meccanismo decisionale? Mi sa che non c'è più. E avevamo anche discusso appunto di un paragone che veniva fatto all'interno di questo articolo, dove si parlava di Walmart, che è una catena di supermercati in America, che negli ultimi anni, da diciamo piccolo negozietto, è diventato quotato in borsa, dei record, si è aumentato in borsa di 500 volte il valore delle proprie azioni, della propria azienda, insomma una scalata incredibile. E poi è arrivata anche a prendere decisioni su quello che vendeva, il famoso episodio di, insomma, una sparatoria all'interno di una scuola, e la decisione di Walmart di eliminare appunto le munizioni che erano state usate, le armi che erano state usate in queste sparatoria, per prendere esatto quel tipo, solo quel tipo, quel tipo. Queste sono le soluzioni all'americana, di prendere una, esatto, hanno usato una Colt, togliamo quel modello, che problema c'è? Salve, scusi, vorrei presente per la strage di due giorni fa, lo stesso modello mi sembra funzioni parecchio. No, guardi, mi dispiace, quel modello non glielo possiamo dare, però c'è questo modellino di... Walmart è stato così bravo da toglierlo dalla circolazione. No, comunque è interessante questa cosa, e poi dicevi anche questa cosa della scalata sociale, no? Che diventerebbe impossibile con il reddito universale, però mi chiedono, ma se io voglio fare il dottore, il professore, l'aviatore, voglio dire tutti quelli con onore, ma non me ne vengono in mente altri. Prevede comunque il programma la distribuzione di una formazione altamente specializzata, eh? Tutti possono accedere alla cultura e insomma essere formati per arrivare a questo, però è una scelta tua, perché avendo il reddito poi di cittadinanza garantito puoi anche tranquillamente vivere con quello e lasciare andare. Da una parte avrei una domanda quasi per tutti, perché c'è stato un particolare che mi ha colpito, ovvero la base, diciamo, le condizioni da cui partono quelli del World Economic Forum, per quello che ho potuto capire, cioè, perché c'è bisogno di fare un reset in questo momento. E il discorso è che nel momento in cui ci sono dei debiti, ok, questi debiti, almeno per quanto riguarda gli investimenti, l'investimento viene fatto perché anche le azioni, io compro un'azione tua, Umberto, perché credo nella tua azienda e credo che quell'azienda produrrà ricchezza in futuro. Quindi i debiti che ci sono oggi, almeno nell'alta finanza, sono debiti perché si pensa che quei soldi saranno moltiplicati, o quantomeno ci saranno dei guadagni a partire da quei soldi che sono stati spesi, che ancora devono rientrare e che quindi sono fuori. La valutazione loro è che a oggi non siamo più nelle condizioni materiali per pensare che ci possa essere uno sviluppo tale da rientrare di questo debito incredibilmente enorme che si è venuto a creare e che ora poi è veramente esploso col Covid. Quindi questa mi è sembrata una sorta di valutazione, di pensiero abbastanza fondato. Cioè effettivamente ora siamo in una condizione per cui, anche proprio dico a livello materiale di risorse, cioè vedendo la Terra come una palla finita di risorse, magari non c'è più la possibilità di avere lo sviluppo come c'è stato il boom negli anni 80. No, ma su quello sono perfettamente d'accordo. Semmai, boh, l'unica cosa che mi viene un po' da dire, boh, è il fatto del fatto che non si possa del tutto ripagare il debito. Cioè, a quanto ho capito, è una nozione molto vaga la mia, però come diceva Varoufakis, alla pila del debito corrisponde la pila del credito, cioè non può esistere debito senza il credito. Quindi, cioè, probabilmente questo credito da qualche parte sarà. Varoufakis diceva che sta tipo parcheggiato da varie parti perché hanno troppa paura per spenderlo in giro. Sì, diciamo che sta nelle mani comunque del famoso 1%. In realtà della top 500 americana già con loro fai tipo il 60% della ricchezza. Comunque, insomma, il fatto sta che... Effettivamente, sì, questo debito viaggia un po' qua, un po' là, e il problema grosso, secondo me, è che davvero, cioè, c'è troppa ricchezza, e questi soldi alla fine vanno oltre quello che è le risorse del pianeta, fondamentalmente. Quindi il reset è un po' l'ultima spiaggia del capitalismo, no? Prima proprio che vada in default come sistema lui stesso. E loro, secondo me, stanno cercando di salvare questo tipo di sistema rimanendo al vertice della piramide. Un po' è l'impressione che ci ha dato, è questa. E infatti, ritornando un po' al discorso di prima dei beneficiari, quale sarà poi l'assurdità? Secondo me l'utopia è che a quel punto le corporazioni, cioè chi fa e si dovrebbe occupare solo di economia, arriverà invece a prendere le decisioni politiche e sociali di tutte le persone, della massa. E la difficoltà che portavano anche nell'esempio che facevo di Walmart è che comunque, se da una parte cerchi di beneficiare il tuo stakeholder, dall'altra danneggerai sempre qualcuno. Il fatto che Walmart abbia fatto la scelta di togliere quelle armi, insomma, è stata una scelta politica che gli ha dato la possibilità di accattivarsi tutta quella parte elettorato americano del centro di mercato sinistra, che era poi un mercato più grande di quello che avevano prima, nonostante avessero perso tutta la parte della destra suprematista, insomma, che conosciamo anche dagli ultimi avvicendamenti. E è interessante, appunto, proprio il paradosso economico che vede a questo punto delle persone giuridiche diventare anche legislatori e capaci, appunto, di governare direttamente in base alla loro potenza economica. E a noi ci ha colpito particolarmente proprio per il fatto che diventa credibile, no, questa cosa, no? Si rifà anche delle idee, sì, di Friedman, che però si era fermato un po' prima dicendo che c'era bisogno di democrazia comunque perché il capitalismo potesse, sì, funzionare ed esistere. Cioè, il fatto è che ha un'analogia abbastanza forte con quello che, appunto, lo citava prima Umberto con Varoufakis del DM25, il movimento Democracy in Europe. E fondamentalmente lui, appunto, dice qual è il discorso dello stakeholder, cioè un po' il finto mito del capitalismo che va a perdersi. E l'idea è questa: se si sono venuti a creare dei monopoli, delle cose che ormai sono di utilizzo quotidiano, come potrei citare, non lo so, Google mi viene in mente, e quindi utilizzare quella determinata piattaforma, utilizzare quel determinato servizio sta diventando un incentivo, cioè nel senso c'è quello che funziona bene ed è gratuito, lo automaticamente si va tutti lì. Questo però implica anche che se fondamentalmente c'è il monopolio, non c'è modo anche per i competitor di offrire un servizio possibilmente alternativo. E quindi Varoufakis dice: se si riuscisse a collettivizzare, e quindi qui mi ricollego allo stakeholder, cioè tutti avere uno stake, cioè un interesse in ballo a che Google vada bene, a che Google continui a fornire un buon servizio, perché tutti abbiamo interesse che funzioni, è perché tutti bisognano in qualche modo esserne o in piccola parte proprietari, e quindi ricollettivizzare delle share, come dice lui, che all'inizio potrebbero essere un 10%, che però potrebbe arrivare fino, non lo so, a un possibile teorico 100%, una sorta di socialismo capitalista, non saprei nemmeno come descriverlo. Una scalata a Google da parte della massa, diciamo. Esatto, e quindi niente, è sempre più, cioè da un mostro bifronte questa sorta di Great Reset sta diventando trifronte e così via, perché comunque lo si può guardare da tanti punti di vista, a volte può essere qualcosa di assolutamente bello e affascinante, altre volte può sembrare l'incubo della nuova alt-right. Sì, c'è sempre questa doppia faccia, no, della medaglia, su capire se davvero vogliono il bene dell'umanità o è magari il punto definitivo per ritornare a una sorta di schiavizzazione, insomma, esatto, se stanno semplicemente ributtando la roba sotto il tappeto da un'altra parte. Esatto, e la cosa figa che, insomma, poi è un po' per concludere, che ci ha lasciati di nuovo a bocca aperta, è che il Time farà una serie, un magazine proprio degli opuscoli in ogni sua edizione, dove passerà punto per punto in rassegna tutte le specifiche di questo programma proposto dal World Economic Forum, quindi è una cosa più che reale. E c'è il redattore di questo magazine, che si chiama Frederic Leroy, che scrive, insomma, in copertina e commenta anche su Twitter, da quello che ho potuto capire, swallow the pill, folks, for your own good, cioè mangiate la pillola, no? Gente, perché è una cosa buona per il vostro bene. The Davos aristocracy at WEF wants the best for you and is so kind to reset your lives in 2001, cioè nel 2021 l'aristocrazia di Davos al World Economic Forum vuole il meglio per voi e è così gentile da, insomma, resettare i vostri debiti nel 2021. Conclude dicendo: no need for democratic consultation, which will but slow down the process of your salvation. Cioè non c'è bisogno di consultazioni democratiche che potrebbero rallentare questo processo di salvezza per la razza umana. Eh sì, discorsi alquanto preoccupanti da tanti punti di vista. Eh sì. Vedremo se alla fine cosa ci sta al centro di tutto questo programma, se vogliono salvare il pianeta, la razza umana o il capitalismo, esatto. Non lo so. La loro posizione all'interno del capitale. Esatto. Chissà. Comunque, insomma, è l'evoluzione, no? Ci siamo. Tra un complotto e l'altro, comunque, salta fuori questa roba. E c'è sempre per me, o poi sarò irrimediabilmente scettico. Magari un giorno guarirò, ma c'è sempre anche la possibilità che sia tutta una roba per farsi un po' di pubblicità. Eh sì. Chissà. Speriamo, resti tanta pubblicità, diciamo così. Ma, insomma, è stato un bel viaggio anche questa seconda stagione, questa prima puntata della seconda stagione, e direi che siamo arrivati a conclusione. La prima prova della seconda stagione. Bella, esatto. Bella. Vabbè, metto su un po' di blues e niente, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Buono. We'll be right back. You know I don't wanna be rich. I didn't wanna stay between rich and poor. No, I don't wanna be rich people. I just wanna live between rich and poor. Yes, when I die, you know I wanna go to heaven. That's when Poe Lightning will have a chance to go. Gabriel's gonna be the next man to blow that trumpet. I want to be there when he blows. Blow, Gabriel. Whoa, he gonna be the next man to blow that trumpet. I want to be there when Poe Gable blow. Whoa, that's when the world be over with the people. Everybody. Cosa hai mangiato ieri, Gilla? Ho mangiato cetrioli. Beh, dai. E poi non mi ricordo perché già vado di giorno in giorno e poi resetto, quindi... Decretti. Ma l'hai cucinato i cetrioli? Cetrioli no, assolutamente in salamone. Ma non lo sai che crudi fanno malissimo? Ma come, caro? Ma sì, ma l'ho letto su Wikipedia. Ma avevano anche suggerito di mangiarli dal culo, ma per ora non me la sento. Perché come si mangiano? Vabbè, questi fuori onda cancellare subito.